20 luglio 1943. Sono stata al cimitero per vedere se hanno colpito la tomba dove giace mio padre. Non mi hanno fatto entrare, ma le bombe devono averlo devastato, il verano. Si intravedono gli sconvolgimenti attraverso i cancelli. Ho tentato di arrampicarmi su una breccia del muro di cinta diroccato, ma i guardiani mi hanno spinta indietro. Sono stati cortesi e anche pietosi, ma inflessibili. Deve essere orribile quello che non ci vogliono far vedere. È chiaro che per colpire un obiettivo si semina la distruzione per un raggio larghissimo tutto d'attorno, e loro dovevano colpire i trasporti ferroviari, sono nel loro diritto, ma Dio mio, perché abusano tanto di questi loro diritti? La sorte dell'Italia è veramente spaventosa.